Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Questa mattina, nelle prime ore dell'alba, abbiamo una squadra mobile con altra forza, con i carabinieri, insieme ai carabinieri, siamo riusciti a catturare la bestia, come ho avuto modo di definirla precedentemente, perché tale. La bestia è stata catturata, quindi l'uomo che a Firenze ha seviziato così brutalmente, ucciso la povera ragazza con cui si è aperta questa settimana, è stato arrestato e si chiude questa settimana con l'arresto, per fortuna, di quest'uomo, se uomo si può chiamare. Poi si dice presunto innocente o presunto colpevole, ma poi vi elencherò tutte le prove che lo inchiodano. Naturalmente ci sarà il processo, ma anche lo stesso questore di Firenze che avete sentito poco fa ha detto non c'è alcun dubbio che sia lui. Ne parleremo diffusamente più tardi, adesso poi vi racconterò invece anche le altre notizie attraverso il riassunto, come sempre, all'inizio, il riassunto della giornata. E poi per voi, per i vostri commenti, ci sono sempre, lo sapete, tutte le sere, intanto perennemente anzi, la pagina Facebook di Effetto Notte, e poi quando sono in onda in diretta con voi c'è il numero degli sms 349 238 6666. È stata anche la prima giornata di Berlusconi con le persone malate di Alzheimer. Insomma, varie sono le notizie, ma cominciamo. La giovane donna barbaramente uccisa a Firenze confessa, l'idraulico di 55 anni arrestato. Ho fatto una bischerata, ha detto agli inquirenti, speravo la trovassero viva come le altre. Polemica tra Grasso e Renzi sulle coperture per l'IRPEF, nel cedolino gli 80 euro ci sono, assicura il Presidente del Consiglio, che lo mostra su Twitter, mostra questa busta paga con l'aumento. Elezioni europee, la legge elettorale è rinviata alla Consulta, ma non incide sulle prossime elezioni. Ucraina, sale la tensione nell'est del paese, telefonata tra il segretario di Stato americano Kerry e il ministro degli esteri russo Lavrov. Primo giorno per Berlusconi ai servizi sociali, è andata bene, dice, ma non parlo. Poi attacca il governo e Grillo. Salone del libro, secondo i dati delle vendite, a salvare il comparto sono i libri per bambini. Alta velocità, in treno dalla Cina agli Stati Uniti a 350 km all'ora. È l'ambizioso progetto cinese per una linea ferroviaria da Pechino all'America attraverso la Siberia con un tunnel sottomarino. E partiamo quindi dall'arresto del maniaco seriale e assassino di Firenze che ha reso piena confessione. Si chiama Riccardo Viti, è un idraulico di 55 anni, è sospettato per altri 10 episodi, ma sarebbe in azione da 15 anni, pensate. L'accusa è di omicidio volontario, in casa nastro adesivo e manici di scopa usati per seviziare le vittime. Ma di questo poi, come vi dicevo, parleremo tra poco col presidente degli psichiatri italiani e il commissario della vicenda del mostro di Firenze, Giuttari, che è all'estero, dovremmo riuscire a raggiungerlo all'estero più tardi. Ma passiamo alla politica, con il rinvio alla Consulta della legge elettorale per le europee, rinvio che però non dovrebbe incidere sul prossimo appuntamento con le urne. Il Tribunale di Venezia ha rinviato alla Corte Costituzionale la legge elettorale per le europee. La decisione fa seguito al ricorso presentato dall'avvocato Felice Besostri, che già aveva impugnato il Porcellum, poi bocciato dalla Consulta. In discussione c'è la legittimità della soglia di sbarramento del 4%, che, scrivono i giudici nell'ordinanza, non appare sostenuta da alcuna motivazione razionale. Quella del Tribunale di Venezia è la prima decisione nel merito per quanto riguarda i ricorsi presentati sulla legge per le europee, ricorsi pendenti, oltre che a Venezia, a Roma, Napoli, Milano, Cagliari e Trieste. Gli italiani sono ora più liberi di votare per le liste di gradimento senza paura di sprecare il voto, ha commentato l'avvocato Besostri. Il ricorso, ha chiarito comunque il presidente del Tribunale di Venezia, non intacca l'attuale tornata elettorale. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, di questo anche parleremo dopo, ma proprio di Europa aveva parlato questa mattina a Palazzo Vecchio il presidente del Consiglio Renzi, che in giornata è stato anche protagonista di una polemica a distanza col presidente del Senato Grasso. Non ci passa sopra Piero Grasso, non vanno giù al presidente di Palazzo Madama le accuse del premier Matteo Renzi sulle considerazioni riguardo al decreto IRPEF espresse dai tecnici del Senato. In particolare il servizio bilancio rileva mancate coperture sull'IRAP, così Grasso. Non posso sentire accusare i miei tecnici che fanno un'opera di controllo doverosa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle leggi finanziarie, non posso sentirmi accusare di falsità, anche se da un punto di vista tecnico. Non sono valutazioni date per spirito corporativo o per interessi personali o per sentimenti di vendetta, non sono questi i sentimenti che ispirano gli uffici del Senato. La replica arriva dopo che il Premier aveva duramente attaccato il servizio studi del Senato, bollando le considerazioni come false. Sulla stessa linea di Grasso, Roberto Calderoli della Lega, per il quale la misura è colma, e annuncia querela come vicepresidente del Senato. Per Renato Brunetta, Forza Italia, la posizione assunta dal Premier è un fallo di disperazione e di reazione. Critiche anche dal suo stesso partito, il PD, per Stefano Fassina, sono gravi attacchi contro un'istituzione decisiva per l'autonomia del Parlamento. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Naturalmente si continua a parlare del decreto lavoro. Il ministro Poletti ha assicurato che procede spedito l'iter ed è tornato anche a parlare dei privilegi che vanno cancellati. Incassato il sì del Senato, il decreto lavoro è ora all'esame della Camera per il via libera definitivo. Il DL va convertito entro il 19 maggio. Il testo, giunto da Palazzo Madama, conferma il ripristino dell'apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento delle attività stagionali, mentre la quota obbligatoria di stabilizzazione di apprendisti, pari al 20%, viene limitata alle aziende con oltre 50 dipendenti. Tra le file dell'esecutivo c'è soddisfazione per una norma che può rimettere in moto l'occupazione. Il ministro del lavoro Giuliano Poletti, oggi a un seminario del gruppo del PD a Palazzo Madama, sottolinea il lavoro svolto sinora da Camera e Senato. Pare che il risultato finale, il testo che esce da questo lavoro, è un testo molto vicino al punto di partenza proposto dal governo e credo che in questo abbiano quindi collaborato posizioni politiche diverse, che era naturale che si esprimessero, ma che nei fatti hanno confermato una norma che noi siamo convinti possa semplificare e rendere certa la relazione di lavoro per i contratti a termine e per l'apprendistato. Giuseppe Carlomagno, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E come vi dicevo all'inizio, oggi è stato il primo giorno di Berlusconi, primo giorno ai servizi sociali. A seguire l'evento sono arrivati, potete immaginare, oltre 100 giornalisti da tutto il mondo. Un sorriso e un saluto ai giornalisti. Così Silvio Berlusconi ha concluso, poco prima delle 14, il suo primo giorno di affidamento in prova ai servizi sociali a Cesano Boscone, con i malati di Alzheimer, ospiti dell'Istituto Sacra Famiglia. Arrivato intorno alle 9.30, un quarto d'ora prima dell'appuntamento previsto, l'ex premier si è presentato in abito scuro e tanto di spilla di Forza Italia, non fermandosi a parlare con la ressa di giornalisti che l'attendeva dalla mattina presto. Subito fermato un pittoresco contestatore, infiltrato tra i tanti curiosi e sostenitori presenti. All'uscita, 20 minuti dopo le 4 ore previste, Berlusconi così ha spiegato il suo silenzio. Mi chiedono di non fare nessuna dichiarazione. Grazie. Poi è salito in auto dopo un laconico e è andata tutto bene. All'interno dell'enorme struttura, alle porte di Milano, grande curiosità, ma i dipendenti sono stati avvertiti. Silenzio assoluto, niente foto né dichiarazioni, anche per loro. Andrea Tarambrosio, Radio 24. Il Sole 24 Ore. E naturalmente ieri ne abbiamo parlato ampiamente perché ieri era scoppiato il caso. Torniamo sull'inchiesta sull'Expo. Lunedì partiranno gli interrogatori per gli arrestati. Il presidente della regione Maroni ha confermato la fiducia al commissario unico dell'Expo Sala, mentre il sindaco di Milano Pisapia ha annunciato che è stato già individuato il nome del successore di Parix, ex direttore Contrati, arrestato ieri insieme ad altre 6 persone. C'erano gli appalti già ipotecati e quelli a cui puntavano, c'erano le coperture già collaudate a destra e sinistra e poi c'era il terzo canale. Mentre tra shock e amarezza si lavora alla sostituzione del direttore Contratti di Expo, le carte dell'inchiesta allargano l'orizzonte anche fuori dai confini nazionali. Era il padiglione cinese, infatti, uno degli affari di massimo interesse, secondo Primo Greganti, che al telefono si rammaricava però che i cinesi fanno fare tutto giù, ma noi, rifletteva, abbiamo detto che qui stiamo. In fondo tentarono nuoce come per gli appalti dei parcheggi di Expo, di cui già sapevano, visto che il bando l'avevano già letto, come si ripetono al telefono, che la gara sarebbe andata probabilmente deserta. Tutto merito di Angelo Paris, il loro uomo dentro Expo, a cui avevano già prospettato un futuro dentro Infrastrutture Lombarde. Lui in fondo voleva solo stare tranquillo 7-8 anni e vi do tutti i lavori, ripeteva. Una tranquillità cercata per lui negli appoggi politici nazionali, da Berlusconi a Lupi e locali, compreso l'accerchiamento al governo governatore Maroni. Ma c'è pure un terzo canale, il Vaticano. Noi abbiamo amico il ministro delle finanze e il segretario di Stato, confida Frigerio, uno degli arrestati, lo stesso che racconta di un incontro con la curia milanese, perché le strade dell'Expo sono infinite. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E dall'Expo all'inchiesta su l'arresto di Claudio Scajola, l'ex ministro si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia che è venuto oggi nel carcere di Regina Coeli, dove si trova detenuto da ieri. Scajola è accusato di aver favorito la latitanza dell'ex deputato di Forza Italia, Amedeo Matacena, condannato per mafia. Spostiamoci sulle notizie dell'estero. Ucraina continua a salire la tensione nell'est del paese, mentre il presidente Putin, presidente russo, vola a Sebastopoli dopo le celebrazioni per il 9 maggio, giorno in cui i russi ricordano la vittoria sui nazisti. È volato a Mariupol, città sul Mar Nero, sono oltre 20 morti. Lui è volato a Sebastopoli, ma a Mariupol sono oltre 20 morti degli scontri tra filorussi e truppe di Kiev. Questo pomeriggio poi c'è stato un incontro tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Hollande, e si è parlato anche della crisi ucraina, e l'Europa sarebbe pronta a inasprire le sanzioni nei confronti di Mosca. Nigeria, le forze armate nigeriane erano state informate del piano di attacco dei jihadisti di Boko Haram alla scuola di Chibok, che ha portato al sequestro, ne abbiamo parlato in questi giorni, di oltre 200 ragazze, ma non sono intervenute le forze armate nigeriane. Questa è la pesante accusa mossa oggi da Amnesty International, che ha precisato di aver verificato le informazioni sul sequestro con fonti attendibili. Tuttavia l'esercito non sarebbe riuscito a mettere insieme le truppe necessarie pensate per fronteggiare l'attacco a causa delle scarse risorse e del presunto timore di affrontare gli islamisti spesso meglio equipaggiati. Il fatto che le forze di sicurezza nigeriane sapessero dell'imminente attacco di Boko Haram e non siano intervenute, dice Amnesty, rafforzerà le proteste nazionali e internazionali contro questo orribile crimine, sperando che poi si passi anche all'azione. Ma torniamo alla cronaca giudiziaria italiana. È attesa in serata, per il momento non vedo, mi pare, aggiornamenti, la sentenza della Cassazione sulla detenzione di Marcello Dell'Utri. Dopo 20 anni, forse questa sera potrà essere scritta la parola fine sulla vicenda processuale di Marcello Dell'Utri. I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione sono riuniti in Camera di Consiglio da oltre un'ora. Condanna definitiva, assoluzione o annullamento con rinvio, queste le tre opzioni per l'ex braccio destro di Berlusconi, condannato in appello a 7 anni in concorso esterno in associazione mafiosa. Una condanna che il procuratore generale ha chiesto di confermare. Per 18 anni, ha detto Aurelio Galasso, Dell'Utri è stato il garante tra Berlusconi e Cosa Nostra. L'ex senatore di Forza Italia è provato da 20 anni di indagini, ha detto invece il suo avvocato Massimo Croga, aggiungendo di non condividere la sua iniziativa di andare in Libano, ma di giustificarla. Può aver perso la testa e commesso una stupidaggine. Dell'Utri è detenuto dal 12 aprile a Beirut, piantonato all'ospedale dove è stato ricoverato subito dopo il suo fermo. Se la Cassazione dovesse condannarlo in via definitiva, comincerà la complicata partita dell'estradizione. La richiesta ufficiale è stata inoltrata 4 giorni fa dal governo italiano, ma faceva riferimento ad un ordine di arresto cautelare. Ma secondo il suo avvocato libanese mancherebbero i presupposti anche in questo caso. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Per chiudere, due altre notizie: una di sport e di ciclismo. Al Giro d'Italia il canadese Tufto Taft è la prima maglia rosa, e poi vi dicevo di questo treno dalla Cina agli Stati Uniti, 2 giorni a 350 km l'ora, un progetto per la linea alta velocità con un tunnel sottomarino, ambizioso progetto dei tecnici cinesi. Non credo che starete viaggiando ancora su un treno ad alta velocità, così alta, precisa, 350 km orari, ma se state viaggiando, questi sono gli aggiornamenti per voi. Poi torno incominciando a affrontare alcuni dei temi, in primis quello del caso di Firenze, con alcuni ospiti. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ricordo poi che ci sono sempre i vostri commenti, la pagina Facebook di Effetto Notte, e c'è il numero per i messaggi, SMS al 349-238-6666, diversi dimostrano insomma un certo contentezza, entusiasmo che sia stato arrestato il criminale di Firenze. E poi adesso vi ricordo brevemente quali sono state le notizie della giornata e affrontiamo proprio questa notizia. La giovane donna barbaramente uccisa a Firenze confessa l'idraulico di 55 anni arrestato. Ho fatto una bischierata, ha detto agli inquirenti, speravo la trovassero viva come le altre. Polemica tra Grasso e Renzi sulle coperture per l'IRPEF. Nel cedolino gli 80 euro ci sono, assicura il Presidente del Consiglio e twitta mostrandolo appunto su Twitter. Elezioni europee, la busta paga. Elezioni europee, la legge elettorale è rinviata alla consulta ma non incide sulle prossime elezioni. Primo giorno per Berlusconi ai servizi sociali, dice che è andata bene e poi attacca il governo e Grillo. Il Salone del Libro, secondo i dati delle vendite, a salvare il comparto sono i libri per bambini. E allora, dicevo sin dall'inizio, insomma, di questo arresto del questore di Firenze, che ha detto abbiamo arrestato la bestia, perché così non si può altro che definire, ha detto anzi mi dispiace per gli animali, aveva detto anche ieri. Naturalmente per ora si usa dire un po', diciamo per ritualità, il presunto assassino, il presunto maniaco sessuale, ma vi elenco un po' tutte le cose che difficilmente possono, diciamo, porre dei dubbi. E intanto abbiamo detto si chiama Riccardo Viti, ha 55 anni, un idraulico di Firenze. Quando è stato arrestato ha detto sono finito e poi ha detto ho commesso una bischierata. Quindi l'uomo ha confessato, l'identikit fatto dai carabinieri sulla base delle testimonianze corrisponde perfettamente. Il nastro adesivo con cui è legato la povera ragazza romena e le altre vittime, perché a lui si addebitano almeno altri 10 casi negli anni, è uguale questo nastro adesivo a quello trovato in casa sua, sottratto all'ospedale dove lavora la compagna. Il DNA coincide, il suo DNA, con quello ritrovato sul luogo del delitto. Ha l'auto furgonata di cui si parlava nelle testimonianze, ma che è stata anche ripresa nei filmati delle telecamere delle cittadine. C'erano per l'appunto telecamere lungo tutta l'area che ha percorso. Nel garage in uso a Riccardo Viti è stata trovata anche la parte, pensate, del bastone usato per la violenza su Cristina Zanfir. L'altra parte del pezzo di legno era stato trovato nel corpo della 26enne romena. Questo per dire. Il questore di Firenze, Micillo, ha detto è sicuramente responsabile del gesto e probabilmente degli altri fatti simili riscontrati precedentemente. Allora io saluto subito Michele Giuttari. Buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Grazie di essere in collegamento anche dall'estero. È il famoso commissario della vicenda del mostro di Firenze, il cui lavoro poi fu determinante per giungere all'individuazione dei famosi compagni di merende, all'ipotesi dei mandanti. È l'investigatore diventato affermato scrittore dopo aver lasciato la polizia, quello che era considerato il super poliziotto. Tra i suoi libri I sogni cattivi di Firenze. E saluto Claudio Mencacci, professore, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Psichiatra e presidente della Società Italiana di Psichiatria. Prima di passare la parola a Giuttari, vorrei sapere da lei, professore, da tutte queste cose che ha sentito, che ha letto, eccetera, che profilo ne fa? Perché uno può pensare, questo sicuramente sarà una persona disturbata, però vogliamo dire che anche una mentalità un po' silente, come si dice anche delle cellule terroristiche, un po' silente in una certa cultura che ha un filo conduttore tra i maltrattamenti in famiglia, i femminicidi, fino ai rapimenti delle ragazze liceali in Nigeria che, certo, è stato detto saranno vendute come schiave sessuali a $12. È tutta una mentalità questa in realtà, non bisogna essere pazzi per questo, bisogna aderire a un certo tipo di cultura. Quello che dobbiamo riconoscere è che questo è l'esempio di una doppia violenza sulla donna, perché da un lato la violenza era iniziale nel traffico della prostituzione e dall'altro l'esposizione a uomini che veramente odiano le donne. E non dobbiamo dimenticare che nel nostro paese ogni anno vengono uccise dalle 133 o alle 177 donne all'anno, quindi ogni 2 giorni e mezzo una donna viene uccisa. Professore, cosa risponde? Il dato della violenza. Prego. Il dato della violenza che continua nei confronti della donna fino ad arrivare a queste manifestazioni di sadismo, ma che non hanno nulla di diverso dalle violenze che accadono all'interno delle mura domestiche. Infatti questo era un po' il concetto che volevo esprimere. Senta, che cosa risponderebbe a questo ascoltatore che scrive: cara Giordano, è un delinquente malato l'assassino, ma la ragazza non fa pena perché poteva fare le pulizie, doveva fare la prostituta in Romania, non infangare l'Italia. Pensi quindi che mentalità anche qua, no? Da chi può venire un'affermazione del genere? Tra l'altro il compagno di questa ragazza ha detto che hanno 2 figli che sono in Romania e che lei si prostituiva per riuscire a mandare dei soldi ai figli e ai parenti in Romania. Sì. Quello che colpisce è proprio questo, quello che diceva, forse 10 episodi precedenti. Allora la domanda è: quanta violenza deve rimanere nascosta e solamente quando c'è l'omicidio allora prende il risalto della cronaca e delle investigazioni? Perché la situazione si è ripetuta, un nastro della ASL di Careggi che si ripete in 10 casi, credo che farebbe la gioia non solo degli scrittori ma di qualunque investigatore. E allora il sospetto che nei confronti di una donna che esercitano la prostituzione non ci sia così questa tutela, non c'è per le altre, ancora meno per questa. Certo, in fondo dice, potrebbe pensare qualcuno, sono delle prostitute, ma infatti dottor Giuttari, stamattina avevo proprio twittato questo, che finalmente l'avevano arrestato, ma mi chiedevo, doveva proprio scapparci la povera morta per decidersi a cercarlo, perché si dice che 15 anni, da 15 anni in azione, che queste azioni estremamente sadiche e violente le ha esercitate tante volte. C'era anche una testimone che l'anno scorso, un'altra donna che si prostituiva perché diceva sono consumo droga, ho bisogno di soldi, mi prostituisco, insomma non stiamo a indagare perché una lo fa per lo più sono costrette, altre lo fanno per guadagnare qualche soldo, e comunque diceva ho subito lo stesso trattamento, sono rimasta viva, per fortuna mi hanno trovata viva, sono stata un mese all'ospedale, ho descritto esattamente, e dalla descrizione che già raccontavo fatta da lei due giorni fa risultava esattamente questo tipo di uomo. Perché? E poi le telecamere, mi chiedo, come hanno filmato il suo percorso in questi giorni? Non c'erano prima? Non si poteva arrivare prima a fermarlo, Giuttari? Ma guardi, possiamo fare solo delle ipotesi perché non conosciamo i casi precedenti. Bisogna vedere quando sono avvenuti, dove sono state presentate le denunce, se le hanno effettivamente presentate o magari qualche testimone sta parlando solo adesso dopo l'uccisione dell'ultima vittima. E poi bisogna capire un po' come si sono sviluppate quelle indagini. Cioè le indagini... Le indagini devono seguire dei tempi giusti e devono svilupparsi nei modi giusti. Questa è un po' la tecnica investigativa classica, tradizionale, che è stata perfettamente sposata in quest'ultimo caso, portando nell'arco di pochissimi giorni, di poche ore addirittura, all'identificazione e cattura del maniaco assassino. Ecco, quindi bisognerebbe capire un po' gli altri casi, se sono stati denunciati tutti quanti, dove sono stati denunciati, perché magari sono avvenuti tra Firenze e Prato, quindi sono intervenuti i carabinieri, sono intervenuta la polizia o qualche commissariato, cioè non c'è stato sicuramente un quadro d'insieme di tutti questi casi che ha potuto portare ad una valutazione degli elementi oggettivi e degli eventuali indizi dei singoli casi per sviluppare un'indagine unitaria. Quindi bisogna capire questo. Questa però osservazione che ha fatto e a cui ho dato questa risposta un po' senza conoscere le carte, senza conoscere ogni indagine di aggressione, dovrebbe far riflettere e portare chi di dovere in relazione a determinati reati, quali questi reati che si verificano ai danni delle donne, sia tra le quattro mura di una casa, oppure questi stupri, queste violenze anche ai danni delle prostitute, chi di dovere dovrebbe provvedere a istituire un ufficio unico dovrebbero far capo tutte le denunce e che dovrebbe essere deputato a sviluppare le indagini. Ecco, questo porterebbe ad un quadro d'insieme dei singoli fatti che possono essere eventualmente collegati uno all'altro come in una catena e portare all'assassinio seriale quale si è rivelato questo Riccardo Viti, credo che si chiami. Riccardo. Quindi si dovrebbero riflettere e creare come risposta investigativa ecco, un ufficio di questo genere, di questo tipo, magari interforze, ancor meglio interforze tra polizia, con elementi della polizia e dei carabinieri. Per quanto riguarda invece quest'ultimo caso, l'indagine è un'indagine tradizionale, classica, perfetta, che ha seguito i tempi giusti e quindi i ritmi giusti di un'indagine investigativa, di un'investigazione, è sviluppata nei modi anch'essi giusti. Ecco, quando si parte col piede giusto in un'attività investigativa, e allora è molto verosimile che si possano ottenere anche in breve tempo i risultati a cui uno tende, un investigatore tende. Quando invece ci si affida parecchio alla scienza, al risultato scientifico, come è avvenuto in diversi casi nazionali ancora molto dubbi o addirittura ad opera di ignoti, gravissimi fatti, quando ci si affida solo alla scienza, allora è difficilissimo poter chiudere favorevolmente un'indagine e identificare il responsabile. Vorrei fare una precisazione su quanto ha detto nella presentazione in maniera molto corretta il presunto colpevole, ecco, questo Riccardo Liri, certo presunto perché per la nostra legge bisogna che si sviluppino i tre gradi del giudizio, si presume sempre colpevole, ma credo che ci siano a suo carico non solo una marea di indizi ma addirittura delle certezze probatorie, quindi non ci sono dubbi che quest'uomo ha fatto violenza, ha ucciso questa giovane rumena, questa poveretta, ha fatto sicuramente degli atti di violenza atroce nel passato, si parlava di 10 casi ma probabilmente saranno anche di più se si va a scavare a fondo nella vita di quest'uomo, perché non si diventa sadico, maniaco, così persona che odia proprio le donne, che le fa soffrire dall'oggi al domani. Ecco, questo nella sua vita sicuramente ci saranno stati diversi reati e anche diversi segnali che magari non sono stati valutati sufficientemente da chi li avrebbe dovuti valutare. Esattamente questa era la mia obiezione. Prego, Giuttari. No, un'altra cosa che posso dire su questo caso, che deve far riflettere anche su questa figura che si è rivelato come, ecco, il maniaco seriale, l'assassino, che però aveva una vita normalissima, aveva dei genitori normali, una convivente, il figlio della convivente, aveva un lavoro, cioè poteva sembrare un personaggio, una persona insospettabile, invece aveva quest'anima nera, quest'anima proprio malvagia che manifestava nei momenti in cui magari a modo suo intendeva rilassarsi, intendeva chissà perseguire dei fini, queste finalità che gli procuravano piacere, che gli procuravano sicuramente per lui una grande gioia, per farlo star bene. Ecco, quindi l'importante è anche che l'abbiano preso, mettiamo da parte le polemiche, io capisco ognuno fa le proprie riflessioni che magari non sono del tutto peregrine, ma a cui io non posso e non so rispondere perché, come dicevo prima, non conosco gli altri casi, però mettiamo da parte le polemiche. Un plauso va, a mio giudizio, alla polizia fiorentina che è riuscita ad arrestarlo e catturarlo in brevissimo tempo. Sicuramente se non l'avessero identificato così presto, una mente così perversa avrebbe continuato a stuprare donne, e anche probabilmente ad ucciderle, anche perché la sua attività sicuramente andava in crescendo, come un'attività tipica di un serial killer, anche se un maniaco con queste turbe, ecco, di depravazione fortemente, di sadismo, ma sicuramente la sua attività lo portava a compiere ulteriori atti e probabilmente sarebbe andato avanti. Quindi certo. È stato un fatto veramente molto positivo e si è stato assicurato alla giustizia. Meno male. Speriamo che non esca presto, speriamo che sia in galera, speriamo che i giudici che lo dovranno giudicare e soprattutto quando verrà il tempo di concedere eventuali benefici con la magistratura di sorveglianza, che questi giudici abbiano sempre davanti agli occhi l'immagine di questa povera ragazza di 26 anni e di questi bastoni con quelle modalità crocifissa. Ecco, questo deve stare in galera. Dottor Giuttari, sono d'accordissimo con lei, penso che tutti possano essere d'accordo, la questione di essere giustizialisti o meno, ha fatto delle cose orrende, le avrebbe continuate a fare. Infatti io mi chiedevo ancora polemicamente quando avrà il primo permesso premio, come andrà. Per esempio, professor Mencacci, quante possibilità che gli venga riconosciuto, non so, magari il fatto di non essere mentalmente... Direi nessuna. Guardi, è assolutamente capace di intendere, di volere, è assolutamente in una condizione che non ha nessun disturbo psichico. Questo si tratta di un sadico, perverso, violento e non ha nessuna giustificazione patologica. È importante rispetto a questo poter riconoscere che un conto sono le persone che soffrono di disturbi psichici che non sono sadiche o serial killer. Questa è la normalità del male, che è il male che succede in questi omicidi, ma è lo stesso sadismo che abbiamo nelle pareti domestiche. Il 35% delle donne che subiscono violenza nell'arco della vita è un numero che ci deve costantemente far riflettere. E creare sì delle task force, creare una sensibilità, ma soprattutto sensibilizzare tutte le aree, soprattutto sanitarie, che devono essere molto più vigili e attente a riconoscere i segni di violenza. Grazie professor Claudio Mencacci e grazie dottor Michele Giuttari. Grazie. Grazie a voi. Grazie, grazie, buona serata e buona continuazione. Adesso ci prendiamo giusto una pausa, prendiamo un po' di respiro da una cosa così pesante, purtroppo così reale, ci sentiamo tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi di nuovo con voi, Roberta Giordano, con voi abbiamo approfondito molto con due ospiti di grande livello il caso di Firenze. Adesso invece vi ricordo brevemente quali sono state le notizie della giornata, perché ogni pausa molti potrebbero accendere in quel momento la radio, quindi vi riaggiorno e poi adesso invece parleremo più di politica. Scontro tra Grasso e Renzi sui rilievi dei tecnici del Senato. Il presidente del Senato Grasso dice che bisogna rispettare l'istituzione e Renzi risponde: le coperture ci sono. E pronti gli 80 euro per 786.000 statali a maggio. Il bonus del decreto legge IRPEF sarà evidenziato in busta paga. Rinviata la consulta alla legge elettorale per le europee, Renzi e Napolitano temono un aumento dell'astensionismo. Preso il killer della giovane prostituta, mamma sono stata io, dice, è stato io l'idraulico di Firenze di 55 anni, si chiama Riccardo Viti, è sospettato per altri 10 episodi ma sarebbe in azione da 15 anni. Scajola, notizia di poco fa, dice che oggi si era avvalso della facoltà di non parlare, dice: dimostrerò la mia innocenza sul caso Matacena. E poi il primo giorno di Berlusconi dai malati della Sacra Famiglia è andato bene, dice: ma non parlo. Poi attacca governo e Grillo. E subito saluto e ringrazio anche per la pazienza il professor Gianfranco Pasquino. Professore, bentornato. Grazie a voi, buonasera. Politologo e presidente della Società Italiana di Scienza Politica. Allora, a proposito di questi screzi che si sono stati oggi, non è la prima volta, tra Renzi, presidente del Consiglio, e il presidente del Senato Grasso, ne parliamo tra poco, ma anche sul rinvio invece alla consulta alla Corte Costituzionale della legge elettorale per l'Europea. Cioè, il Tribunale di Venezia ha rinviato alla Corte Costituzionale la legge elettorale per l'Europea, accogliendo il ricorso presentato dall'avvocato Felice Alice Besostri, ex parlamentare, docente di diritto comparato a Milano, che già aveva impugnato, vi ricordate, il Porcellum, poi bocciato dalla Consulta. In discussione, per prima cosa, c'è la legittimità nella legge elettorale per europee della soglia di sbarramento del 4% prevista dal testo, ma c'è anche la disparità di trattamento delle minoranze linguistiche, il mancato riequilibrio di genere e la deroga alla raccolta di firme di presentazione delle liste. Anche se viene detto che questa cosa non inciderà sulle prossime elezioni europee, quindi mi chiedo anche perché ci sia stato questo ricorso, visto che poi se ne parlerà tra altri anni. Che dice, professore? Ma il perché non lo so, certamente Besostri deve avere molto tempo libero per sfidare una legge elettorale che nessuno aveva sostenuto avere elementi di incostituzionalità. Il Tribunale di Venezia credo che si sia liberato di una patata bollente, però come dire, su alcuni punti sarei assolutamente perplesso, cioè non credo che si possa ritenere una legge incostituzionale solo perché prevede una soglia di sbarramento per l'accesso al Parlamento, tra l'altro in circoscrizioni molto ampie. In Europa di soglie di accesso ce ne sono dappertutto, in Germania per esempio del 5%, in Svezia, che pure mi pare un paese molto democratico, del 4%. Per quello che riguarda la parità di genere, può darsi che ci sia un elemento di cui tenere conto, ma anche in questo caso tutto questo mi sembra molto tardivo, cioè la legge elettorale per le europee era chiara oramai da tempo. Io mi auguro che la Corte per il momento soprasiede, poi si andrà a vedere. Anche perché si vota tra 15 anche giorni, fra l'altro. Certo, no? Ma poi ci sono anche delle disposizioni europee. La Commissione europea è molto attenta a tutto questo e se avesse riscontrato anche degli elementi discriminatori probabilmente sarebbe intervenuta per tempo. Quindi, insomma, al di là poi del perché l'abbia fatto Besostri, cioè l'abbiamo detto quali sono i punti in discussione, intanto questa cosa non dovrebbe valere adesso, proprio perché sono imminenti il 25 maggio le elezioni. Invece su questo scontro tra Renzi e il Presidente del Senato Grasso, perché i tecnici del Senato hanno fatto dei rilievi su questo decreto legge sull'IRPEF, dicendo che non ci sono le coperture e poi dice anche sul tetto agli stipendi, dice Renzi, non mi hanno risposto questi tecnici, servono delle riforme. E Grasso ha replicato piuttosto duramente dicendo il Senato merita rispetto, non è un carrozzone, le analisi sono state fatte in base dei dati, senza retropensieri. Sono questioni tecniche queste, oppure c'è Renzi un po' velenosamente, non lo so, realisticamente dice ma capisco che Grasso tenda a difendere l'istituzione di cui è presidente, lo comprendo perché capisco il suo ruolo, io non sto attaccando il Senato, dico che il Senato va superato, quindi qual è il problema secondo lei? Ma dire che il Senato va superato proponendo quel tipo di riforma che è francamente assurda e infatti sulla quale non solo i senatori hanno molti dubbi, ma un po' fra tutti i costituzionalisti serpeggiano dubbi, mi pare da parte di Renzi un'affermazione assolutamente fuori luogo, dovrebbe sapere tutto impostare le riforme. Secondo, buttare questo in personalismi dicendo che i tecnici replicano perché si sta per ridurre lo stipendio mi pare molto molto di cattivo gusto. In realtà i tecnici del Senato, per quello che riguarda naturalmente i conti, sono ritenuti fra le persone più competenti in materia. Faccio notare che uno di loro, per esempio, era anche diventato ministro di recente e poi è stato nominato alla Consob, e quindi non credo che si possano essere messe in dubbio le competenze. Aggiungo che lo stesso ministro dell'economia ha detto che non raggiungeremo il pareggio di bilancio quest'anno e che significa dunque che c'è un qualche problema di conti. Forse Renzi dovrebbe anzitutto consultarsi con il ministro dell'economia e poi con grande chiarezza mettere a disposizione di tutte le cifre, vediamo le cifre sue e le cifre dei tecnici del Senato, e a quel punto saremo in grado di decidere chi ha ragione e chi ha torto. Benissimo, è stato molto chiaro professor Pasquino, poi vedremo appunto questi 80 euro che lui ha twittato questa immagine del cedolino con gli 80 euro, poi invece della riforma del Senato ormai ne parleremo, come lui stesso ha detto Renzi, dopo le elezioni europee, il tempo ormai corre. Professor Gianfranco Pasquino, buona serata, buon fine settimana. Grazie a lei, buonasera. Grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Vedo poi che c'è Alessandra che scrive: torna in mente il Circeo, vi ricordate i mostri del Circeo, di cui uno era finito in carcere, gli è stato anche dato dei permessi premio, poi aveva ucciso altre due donne, il permesso premio, speriamo, dice, che non tirino fuori l'impazzimento momentaneo come in altri casi per sconti di pena. Il professor Mencacci, psichiatra, ci assicurava di no, poi bisognerà vedere, e così auspicava il dottor Giuttari. Adesso parliamo di Europa, oggi è la festa dell'Europa, prima di parlare del tempo poi con Giuliani, oggi è la festa dell'Europa, mancano meno di 2 settimane alle elezioni europee, Strasburgo si prepara quindi a riaprire i battenti con l'incognita euroscettica tra Stoccarda e Strasburgo, se Agionava ci porta sul confine franco-tedesco fra filoeuropei e anti-europeisti. Europa 24 notte. L'Europarlamento è pronto tra alcuni giorni a riaprire i battenti. Lieche dell'ultima plenaria di Strasburgo, meno di un mese fa, risuonano ancora in questo periodo di campagna elettorale che vive gli ultimi concitati giorni in vista del voto del 25 maggio. Abbiamo chiesto un bilancio degli ultimi 5 anni di legislatura alla vicepresidente dell'Europarlamento, Roberta Angelilli. Sicuramente la nuova programmazione dei fondi europei, oltre 900 miliardi di euro, 140 miliardi di euro soltanto per l'Italia. C'è poi tutto il lavoro fatto sulle banche. Quello che noi diciamo è mai più un euro dei cittadini per ripianare i fallimenti delle banche. E poi un grande dibattito che si è aperto anche sul versante dell'immigrazione. L'immigrazione deve essere un problema a 28 Stati membri e non soltanto dei paesi che affacciano sul bacino del Mediterraneo. Domani vi porteremo invece nel cuore dell'Europa, a cavallo tra Stoccarda e Strasburgo, due regioni confinanti, simbolo in qualche modo dell'alleanza franco-tedesca. Vi faremo conoscere il Land del Baden-Württemberg, il primo in Germania a eleggere un governatore del Partito dei Verdi, e andremo a indagare la pancia nera dell'Europa, impersonificata in Francia dal Front National di Marine Le Pen. Ascoltate cosa ci ha detto sull'Europa il giovanissimo presidente dei Verdi del Baden-Württemberg, il 26enne Oliver Hildebrand. Ja, wir haben da ganz deutlich unterschiedliche Positionen. Abbiamo posizioni molto diverse dalla CSU bavarese. Critichiamo il fatto che attraverso la parola migrazioni della povertà facciano alla fine il gioco del partito anti-euro Alternative für Deutschland, afferma Hildebrand. La libertà di circolazione nell'Unione Europea vale per tutti, per i cittadini, per le imprese. Consideriamo molto positiva la libera circolazione, contribuisce a creare uno spirito europeo. Non vogliamo certamente riportare indietro le lancette dell'orologio, spiega il presidente dei Verdi, che attacca i cristiani sociali bavaresi. La CSU racconta una mezza verità. Noi tedeschi siamo obbligati all'immigrazione e alla libera circolazione. Abbiamo bisogno di forza lavoro qualificata, ci manca in modo urgente. La seconda cosa è che considerare tutti gli immigrati come dei turisti del welfare è totalmente falso, se non addirittura pericoloso. Ci sono regole chiare che indicano come non si abbia diritto a sussidi immediati al solo toccare il suolo tedesco. Quello della CSU è populismo allo stato puro. Als nach Deutschland zu kommen und sich Geld abzuholen, das ist einfach Populismus pur, meiner Ansicht nach. E ascoltiamo ora invece cosa ci ha detto Pascal Hel, segretaria dipartimentale per il Basso Reno del Front National. Pourquoi avoir peur du Front National puisque nous disons la vérité? Perché avere paura del Front National? Noi diciamo la verità. Marine Le Pen ha posto l'accento sui problemi che toccano davvero le persone. L'Europa è finita, l'Europa non può più continuare così. L'Europa deve divenire un continente dove la Francia recupera la propria sovranità. Dobbiamo recuperarla, non dobbiamo più essere dipendenti da Bruxelles. Noi siamo sotto il diktat di Bruxelles, ci dobbiamo separare. Bruxelles va soppressa, non la vogliamo più. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Vedo adesso un'agenzia di una dichiarazione di Amedeo Matacena, il parlamentare del PDL condannato per mafia, sapete per il quale è stato arrestato a Scajola per aver favorito la sua latitanza, che è raggiunto dall'ANSA Dubai tramite il suo legale. Dice a Claudio Scajola: mi lega un rapporto di amicizia sin dal 1994, quando sono stato eletto deputato per la prima volta. Sono molto turbato dalle notizie che leggo e dimostrerò la mia innocenza. Poi, per quanto riguarda le altre notizie, abbiamo detto la giovane donna probabilmente uccisa a Firenze, ha confessato, l'idraulico di 55 anni arrestato, e ha detto: speravo che la trovassero viva come le altre, sembra che fosse in azione da 15 anni. Polemica tra Grasso e Renzi sulle coperture per l'IRPEF, l'abbiamo sentito. Per le elezioni europee la legge elettorale è rinviata alla Consulta, ma non incide sulle prossime elezioni. E poi il primo giorno per Berlusconi ai servizi sociali. E adesso capiremo questo tempo bislacco. Oggi per esempio a Milano estate c'erano 25 gradi e mezzo, 26, non so, dalle altre parti un po' ne abbiamo notizie, un po' no, ma il nostro colonnello Mario Giuliacci ci aggiornerà su questo fine settimana che ci attende. Colonnello, facciamo sì, un ciao, fine settimana Roberta, un po' diverso dalle vacanze di Pasqua, dai ponti, che è stata sì, un po' una fregatura a molti posti. Io ho colto il tuo invito a dare buone notizie. Diciamo stuminaccia. Domani sarà un'altra splendida giornata con temperature gradevoli su tutta l'Italia, addirittura sul nord Italia, Toscana, Sardegna, ancora valori sui 24-25, anche i 26 gradi. Domenica diciamo bella metà, nel senso che il centro-sud vedrà bel tempo ancora bello e soleggiato, il nord Italia nuvoloso con piogge sulle Alpi centro-orientali, la Lombardia e le Venezie, quindi queste saranno le regioni più sfortunate, ma come ho detto, come vi ho già così raccontato, capirete che il 95% dell'Italia, o diciamo il 90%, sarà con il tempo bello. Quindi di più, cara Roberta, per questo fine settimana non ti potevo offrire, né offrire ai tuoi nostri ascoltatori. Mi sembra sei in un sottomarino per caso, colonnello Giuliacci, è possibile? Sì, mi trovo, non sono a Milano, ma mi trovo a Pescara per un convegno. C'è il mare. Diciamo, c'è il mare vicino, forse senti il... Senti il soffio del mare. Sento no? qualcosa di liquido più che il soffio. Non so, ormai. Giuliacci. Senti, ma possiamo dire ormai che andiamo verso l'estate praticamente, o di nuovo ci sarà un cambio? Ecco, vedi, tu non devi fare domande aggiuntive. Io mi ero fermato a domenica lasciando l'impressione che poi tutto il resto si sarebbe sistemato. In realtà non è così, perché poi lunedì, martedì e mercoledì saranno tre giornate piovose, lunedì e martedì, lunedì è sul nord Italia, martedì su tutta l'Italia, mercoledì sulle regioni del Medio Adriatico e al sud, e mi fermo qui. Mi pare di poter capire, colonnello Giuliacci, che non ci sarà un'estate siccitosa, ecco, perché di riserve di acqua no, se non abbiamo sperperate. Direi di no, perché tanto, ecco, se vogliamo ancora allungare il tiro, andare oltre, direi che fino al 20 circa di maggio non credo che il tempo possa ristabilirsi, e non credo che l'estate possa incominciare a allungarsi fino al mese di maggio, come è stato del resto in gran parte delle annate passate, perché abbiamo visto l'ultima decade di maggio quasi sempre con una prima ondata di caldo. Quest'anno chi me ne è? Bene, caro colonnello Mario Giuliacci, resto su www.meteogiuliacci.it, ti lascio il tuo sottomarino, buon tempo a te comunque sia. Grazie Roberto, un saluto agli ascoltatori. Ciao colonnello, noi a più tardi.